Scende ancora l'inflazione a gennaio, secondo le stime preliminari dell'Istat, è all'1,6%. Cambia il paniere, entrano il mais in scatola e la chiavetta USB. I medici potranno denunciare i clandestini che chiedono cure sanitarie, lo prevede l'emendamento della Lega approvato al Senato. Pace fatta fra lavoratori inglesi e italiani nella raffineria di Grimsby. Nessuno perderà il posto, assicura la Total, ne saranno creati di nuovi. L'ombra del doping sulla morte di un giovane ciclista belga al Giro del Qatar. Al via il Festival del Cinema di Berlino, monopolio dei film americani e tedeschi, l'Italia resta a bocca asciutta. Una buona giornata ad Alessandra Tedesco. E da Simone Spezia. Apriamo con le notizie che sono state diffuse questa mattina dall'Istat, Simone. Sì, che riguardano le stime preliminari dell'inflazione a gennaio, ma non solo. Però iniziamo da queste con Paola Nania in collegamento da Roma. Paola, qual è il dato? Allora sì, buongiorno. I prezzi, come dicevate, come sentivamo dai titoli, continuano a scendere. L'inflazione a gennaio tocca l'1,6% dal 2,2% di dicembre. Il rallentamento è dovuto soprattutto al comparto energetico, quindi legato ovviamente al prezzo del petrolio, praticamente crollato negli ultimi mesi. Il comparto energetico che è diminuito del 2,5% a livello mensile e del 5,4% su base annua. In modo particolare, tanto per fare degli esempi, il gasolio ha perso il 17,7%. In un anno il 5,8% su base mensile, la benzina verde meno 18% sempre a gennaio 2008 rispetto a gennaio 2008, meno 1,9% rispetto a dicembre. Questi sono alcuni dati relativi al comparto energetico. Ecco Paola, però oggi è stato presentato anche il nuovo paniere, cioè quali sono gli elementi prodotti che andranno, sui quali si calcolerà l'inflazione. Sì, esatto. Presentato il nuovo paniere, in realtà ci sono solo dei piccoli aggiustamenti rispetto al paniere 2008, sono stati inseriti 4 nuovi prodotti sulla base dei quali appunto verrà calcolata durante il 2009 l'inflazione su base annua e su base mensile. Quali sono questi 4 prodotti? Sono 2 prodotti alimentari, cioè mais e base per pizza, 2 prodotti tecnologici, la chiavetta USB e il DVD. Abbiamo chiesto, proprio durante la presentazione nella sede dell'Istat del nuovo paniere, abbiamo chiesto, dicevamo, a Roberto Munducci, che è il direttore centrale dell'Istituto Italiano di Statistica, perché questi prodotti siano stati inseriti solo ora e non prima. Sentiamolo. Quando facciamo queste operazioni di ingresso nel paniere verifichiamo il grado di diffusione e anche la stabilità del mercato. Dobbiamo considerare i comportamenti medi dei consumatori, quindi dobbiamo fare riferimento a prodotti che si affermano sul mercato in qualche modo. La chiavetta USB adesso ha assunto, diciamo, un segmento di mercato che si è stabilizzato, è diventato ormai, fa parte della vita quotidiana dei consumatori, e quindi ora è stato ritenuto opportuno inserirla. Grazie allora Paola Nania, collegata con noi da Roma, e noi restiamo nello stesso tempo a Roma, ma ci spostiamo, come potete sentire, nell'aula del Senato. Sì, questa è l'aula del Senato, dove è appena ripresa da veramente un minuto la discussione sul decreto sicurezza. Il Senato ha approvato questa mattina l'emendamento della Lega al pacchetto sicurezza, che dà di fatto la possibilità ai medici, su scelta individuale, di denunciare i clandestini che si presentano al pronto soccorso per ricevere cure mediche. Ma non è il solo provvedimento ad essere stato approvato. Allora, Elisabetta Fiorito, in collegamento da Palazzo Madama, facciamo un po' il punto su cosa è stato approvato. Allora, intanto il voto finale qui al Senato sul decreto sicurezza, che deve a questo punto tornare alla Camera. Sono da pochissimo, come avete detto voi, iniziate le dichiarazioni di voto. Questa mattina è passato l'emendamento della Lega per il quale i medici possono denunciare all'autorità giudiziaria i clandestini che si rivolgono a strutture sanitarie pubbliche. 154 sì, 135 no, un astenuto. E sentiamo a questo proposito il capogruppo al Senato della Lega, Federico Bricolo. Questa è una norma che è già in vigore in Germania, è già in vigore in Francia, negli Stati Uniti, in molti paesi europei. La sinistra deve sempre criticare. Noi vogliamo garantire un servizio sanitario migliore per i nostri cittadini, allo stesso tempo vogliamo anche capire chi entra nei nostri ospedali. Protesta l'opposizione, Anna Finocchiaro, capogruppo PD. Non solo Galan, governatore del Veneto, ha denunciato la possibile catastrofe sanitaria, perché è ovvio che se un immigrato che ha la tubercolosi non va dal medico, perché il medico non ha più il divieto di non denunciarlo, e quindi non sa, sarà denunciato probabilmente. Questo può accendere un focolaio di tubercolosi, malattia sparita nel nostro paese, la può pigliare il nostro figlio quando va in autobus o quando va in metropolitana. E una donna che deve partorire o che ha un bambino piccolo malato non andrà dal medico temendo di essere denunciata. Io mi chiedo cosa questo abbia a che fare con una regolazione seria dell'immigrazione. Ma l'articolo 29 prevede anche il carcere fino a 4 anni per i clandestini che rimangono sul territorio nazionale nonostante l'espulsione, e fissa da 80 a 200 euro la tassa per il permesso di soggiorno. Nasce poi il registro dei clochard presso il Ministero dell'Interno. Autorizzate le ronde padane, vale a dire associazioni di cittadini non armati che possono segnalare eventi presumibilmente pericolosi. Passa anche la norma contro l'apologia della mafia sul web. Elisabetta, questo è il quadro del provvedimento, ma c'è anche una questione politica, perché ieri il governo con il voto segreto è andato sotto, ci sono stati dei franchi tiratori. Oggi mi sembra che per l'esecutivo sia andato tutto tranquillo. Questa mattina tutto è filato liscio, votati tutti gli articoli senza sorprese, dopo che il governo ieri, come avete detto voi da studio, era andato sotto 3 volte durante le votazioni segrete, e questa mattina il capogruppo PDL al Senato Maurizio Gasparri non avanza alcuna ipotesi sull'identità dei 6 franchi tiratori della maggioranza. Per il momento qui dal Senato è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Sentivate dunque l'emendamento della Lega che dà la possibilità ai medici su scelta individuale di denunciare clandestini. Di questo torneremo a parlare più tardi, sentendo proprio i medici che operano quotidianamente con gli immigrati, dunque anche con i clandestini. Ora ci occupiamo di un altro caso medico. Sì, un altro caso che sfiora la medicina, sfiora la politica e tanti altri ambiti, tra cui quello dell'etica, naturalmente, quello di Luana Englaro. C'è chi sostiene l'ipotesi di un decreto legge, come annunciato ieri o come fatto capire ieri da Silvio Berlusconi, per impedire l'attuazione della sentenza della Cassazione, e chi invece chiede al governo di non intervenire di peso sul caso. Fatto sta che il governo interverrà, stando a quanto ha dichiarato oggi Paolo Bonaiuti, portavoce del Presidente del Consiglio. Da domani mattina, secondo quanto riferito dal neurologo che segue la donna in stato vegetativo permanente da 17 anni, dovrebbe iniziare la diminuzione dei nutrienti. E intanto questa mattina l'avvocato della famiglia Englaro e il primario di anestesia della clinica La Quiete sono stati ascoltati dal procuratore capo della Procura di Udine. La stessa procura ha fatto sapere in tarda mattinata che sta valutando i numerosi esposti pervenuti sulla vicenda. La polizia giudiziaria, si legge in un comunicato, sono state delegate opportune indagini. Ci occupiamo ora della vicenda della protesta dei lavoratori inglesi nei confronti dei lavoratori italiani. Ci riferiamo cioè alla raffineria di Grimsby. Ve l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Un'impresa italiana, la Irem, aveva ottenuto l'appalto per costruire un impianto, da qui la protesta dei lavoratori inglesi. Sì, contro i lavoratori italiani e portoghesi, o meglio contro l'utilizzo dei lavoratori italiani e portoghesi. Vincenzo Miglietta, sembra che si sia giunti ad una quadra. Sì, è così. Dopo giorni di polemiche si allenta la tensione intorno alla raffineria. I lavoratori inglesi, infatti, come richiesto dai sindacati, hanno votato per la fine dello sciopero e per il ritorno alla regolarità delle attività. L'accordo siglato con la Total, proprietaria dell'impianto e che ha portato alla fine della protesta, prevede la creazione di 102 posti disponibili per i lavoratori inglesi, in aggiunta a quelli per i dipendenti dell'azienda italiana Irem, i cui lavoratori sono sostanzialmente italiani e portoghesi. Tra questi ultimi è stato garantito nessun operaio perderà il suo posto a seguito dell'intesa. Soddisfazione è stata espressa da tutte le parti in causa. Siamo ansiosi di iniziare a lavorare con le aziende appaltatrici, ha commentato la Total, per un progetto che assicurerà il futuro della raffineria e dell'occupazione locale per molti anni. L'italiana Irem aggiunge: siamo contenti che la situazione si sia sbloccata, soprattutto per la sicurezza dei nostri lavoratori. I 100 operai inglesi, specifica però la Irem, non li paghiamo, certo noi. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Noi restiamo in Gran Bretagna, Simone, perché c'è una notizia che riguarda i tassi. Sì, la Banca d'Inghilterra, notizia di poco fa, ha tagliato il tasso di riferimento di 0,5 punto percentuale dall'1,5% all'1%, portandolo ad un nuovo minimo storico. Questo ha un immediato impatto sui mercati, tanto che Londra al momento è praticamente l'unica borsa positiva nel quadro europeo. Oggi tra l'altro è attesa la decisione della Banca Centrale Europea alle 13:45, sapremo e vi diremo qual è questa decisione. Andiamo ora nelle Filippine, perché i 3 operatori della Croce Rossa Internazionale, fra cui l'italiano Eugenio Vagni, che sono stati rapiti il 15 gennaio scorso, hanno lanciato oggi un appello via radio alle autorità affinché li liberino presto. Per favore trovate un modo per tirarci fuori, ha dichiarato l'italiano Vagni in un'intervista ad una radio cattolica, aggiungendo comunque di essere trattato bene dai rapitori. I sequestratori, lo ricordiamo, sono sospettati di avere legami con un gruppo militante islamico. L'hanno trovato morto nella sua stanza d'albergo stamattina. Sulla morte del ciclista belga Frédéric Nolf c'è l'ombra del doping. Questa volta è toccato a un ragazzo di 22 anni, Frederik Nolf, un velocista belga che da dilettante si era segnalato con alcune belle volate. Era il Giro del Qatar, una di quelle corse surreali con le palme sullo sfondo che si fanno quando da noi è pieno inverno per arrivare alla Sanremo con 15.000 km nelle gambe. È morto di notte, al 14° piano di un albergone da Califfi, senza un perché. Forse un infarto, ma non c'è nulla di ufficiale, tranne il chiacchiericcio velenoso. Come sempre in questi casi, la tristezza si accompagna al sospetto. Sospetto per l'ennesimo caso di un ciclista che dallo sport passa la cronaca nera. Una Spoon River di atleti che si allunga in modo inquietante, a partire da Pantani per arrivare a Valentino Foïs. Senza dimenticare i suicidi, quello riuscito di Luca Gelfi, quello scampato di Frank Van den Broeke. Una corsa a tappi che dal doping passa alla cocaina e poi alla depressione. Magari questo ragazzo Nolf è morto perché sì, perché un cuore si inceppa anche a 22 anni. Magari bastava un controllo medico in più. Però il ciclismo sta diventando come un giallo da quattro soldi, con troppi sospetti che fanno sempre una prova. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Al via oggi il Festival del Cinema di Berlino, un'edizione, la numero 59, in cui però l'Italia resta a bocca asciutta. Stati Uniti e Germania, soprattutto niente Italia o quasi. Accade alla 59esima edizione del Festival di Berlino che si apre oggi e si conclude il 14 febbraio. Emblematico il film d'apertura The International, regista tedesco Tom Tykwer e produzione americana. Alcune scene sono state girate a Milano e c'è anche Luca Barbareschi. We can't allow anyone to put our agenda at risk. They control everything. Le star internazionali non mancano. C'è Demi Moore con Happy Tears, Tommy Lee Jones con In the Electric Mist di Bertrand Tavernier, Jude Law e Judi Dench in Rage, che racconta il mondo della moda di New York. E poi la coppia Renée Zellweger e Kevin Bacon in My One and Only di Richard Longcrane, che per la fotografia ha scelto il nostro Marco Pontecorvo. Perfetto italiano da esportazione, come Monica Bellucci, nel cast all-star del film fuori concorso The Private Lives of Pippa Lee. Il direttore della Berlinale Dieter Koslick, già polemico sulle selezioni romane e veneziane, ha definito la qualità dei film italiani culinaria e ha voluto solo due nostre coproduzioni, Ricky, film di François Ozon, e Eden is West di Costa Gavras, con Riccardo Scamarcio, sempre più internazionale. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Ancora giù l'inflazione, secondo le stime preliminari si è fermata all'1,6% nel mese di gennaio, intanto l'Istat ha aggiornato il paniere di beni sui quali si calcolano i prezzi al consumo, entrano i DVD, le chiavette USB e il mais. Perché vengono inseriti così tardi? Roberto Monducci, direttore centrale Istat. Il paniere fa riferimento a prodotti di largo consumo, noi dobbiamo considerare i comportamenti medi dei consumatori, quindi dobbiamo fare riferimento a prodotti che si affermano sul mercato in qualche modo. Dopo la sconfitta in aula ieri sul decreto sicurezza, oggi il governo ha incassato il via libera del Senato all'articolo 39. Lo ricordiamo, dà la possibilità ai medici di denunciare i clandestini bisognosi di cure, che prevede il carcere fino a 4 anni per i clandestini che restano in Italia nonostante l'espulsione e fissa fra gli 80 e i 200 euro la tassa sul permesso di soggiorno. Sentiamo Federico Bricolo della Lega. Questa è una norma che è già in vigore in Germania, è già in vigore in Francia, negli Stati Uniti, in molti paesi europei. La sinistra deve sempre criticare. Noi vogliamo garantire un servizio sanitario migliore per i nostri cittadini, allo stesso tempo vogliamo anche capire chi entra nei nostri ospedali. Così replica Anna Finocchiaro del Partito Democratico. Non solo Galan, governatore del Veneto, ha denunciato la possibile catastrofe sanitaria, perché è ovvio che se un immigrato che ha la tubercolosi non va dal medico, perché il medico non ha più il divieto di non denunciarlo e quindi non sa, sarà denunciato probabilmente. Questo può accendere un focolaio di tubercolosi, malattia sparita nel nostro paese, la può pigliare il nostro figlio quando va in autobus o quando va in metropolitana. E una donna che deve partorire o che ha un bambino piccolo malato non andrà dal medico temendo di essere denunciata. Io mi chiedo cosa questo abbia a che fare con una regolazione seria dell'immigrazione. Il governo sta lavorando ad un provvedimento per il caso di Eluana Englaro, lo conferma il portavoce del Presidente del Consiglio Paolo Bonaiuti. Intanto la Procura di Udine ha aperto un'inchiesta. Secondo indiscrezioni vorrebbe verificare la testimonianza di amici e parenti sulla volontà della donna che, lo ricordiamo, in stato vegetativo permanente da 17 anni. Per un pestaggio fuori da un bar di Verona, 8 arresti sono ultra di destra, alcuni erano già indagati per atti di razzismo. È arrivato l'accordo tra la Total e gli operai inglesi che protestano contro l'assegnazione di un appalto alla IREM di Siracusa. L'accordo prevede la creazione di 102 nuovi posti per i lavoratori inglesi, in aggiunta a quelli per i dipendenti dell'azienda siracusana, che sono italiani e portoghesi. La banca centrale inglese ha tagliato i tassi di un altro mezzo punto, li ha portati all'1%, alle 13.45 la decisione della BCE. Il ciclista belga Frederik Nolf è stato trovato morto nella sua camera d'albergo questa mattina. Sul decesso c'è l'ombra del doping. Ne abbiamo parlato nella prima parte di Extra Large, lo avete sentito nei nostri titoli, l'approvazione da parte del Senato dell'emendamento della Lega che toglie il divieto per i medici di denunciare un clandestino che richiede cure sanitarie. In sostanza non sono costretti, ma potranno farlo. Ma quali sono le reazioni dei medici che quotidianamente lavorano con gli immigrati? Valentina Furlanetto ha sentito Salvatore Geraci, presidente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Che è un emendamento devastante dal punto di vista proprio sia del diritto all'assistenza, sia del diritto della garanzia della tutela per tutti. Questo emendamento apparentemente non tocca il diritto alla salute, cioè l'immigrato può accedere ai servizi sanitari solamente che poi può essere eventualmente denunciato dal medico o dagli operatori. Se un immigrato irregolare o clandestino sa che se va in ospedale può essere denunciato, in ospedale non ci va. E questo provoca due problemi. Uno a livello individuale, cioè quella persona corre il rischio di ammalarsi in maniera più grave perché tempestivamente non è curata. Due, un rischio per la collettività, perché se questa persona ha una malattia infettiva trasmissibile, chiaramente non curandosi può trasmetterla alle persone che sono vicine. Non diminuisce i costi, perché queste persone alla fine staranno male e avranno malattie più gravi perché non sono state curate, quindi verranno curate ma con livelli assistenziali più complessi perché avranno malattie più gravi, non aumenteranno la sicurezza perché si creeranno dei percorsi sanitari paralleli, probabilmente gestiti da chi non ha intenzione di curare le persone ma di sfruttare questa situazione, e quindi con ulteriore incremento della insicurezza generale. C'è il rischio effettivo che possano diffondersi anche fra la popolazione non solo immigrata delle malattie? Questo rischio non è da escludere, chiaramente, non è da escludere per il semplice fatto che queste persone non accederanno di fatto più alle cure, quindi soprattutto non accederanno nemmeno ai percorsi di medicina preventiva. Questo emendamento contrasta con il giuramento di Ippocrate? Assolutamente, a tutti i livelli. Nel giuramento d'Ippocrate noi ci impegniamo ad eliminare tutti quegli ostacoli che possono creare, diciamo, barriere, e certamente la denuncia non è un percorso di cura. Come crede che si orienteranno i suoi colleghi, i medici in generale? Ci sarà un'obiezione di coscienza? Addirittura noi proponiamo anche che ci possano essere dei provvedimenti per quelle persone che eventualmente decidono di denunciare. E ora parliamo di un nuovo caso di violenza politica a Verona, non il primo negli ultimi mesi. Sì, infatti le persone che sono state arrestate oggi erano già state indagate in passato per associazioni a delinquere finalizzate a lesioni aggravate dalla discriminazione politica e razziale. Le persone arrestate sono i giovani responsabili dell'appestaggio avvenuto a Verona il 4 gennaio scorso. Per una pura fatalità, in questa circostanza non è morto nessuno, ma l'aggressione avvenuta in pieno centro storico a Verona lo scorso 4 gennaio, quando una ragazza di 27 anni, Francesca Ambrosi, ha quasi perso l'occhio sinistro, colpito da un posacenere, e due suoi amici sono stati pestati a sangue da una banda di ultras dell'Hellas, ricorda terribilmente la notte del 30 aprile di un anno fa, quando a 700 metri di distanza fu ucciso a botte Nicola Tommasoli, anche lui giovane, anche lui colpevole di nulla, se non di trovarsi nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Oggi, 8 presunti aggressori sono finiti in cella e il fatto che si tratti di tifosi di estrema destra non stupisce nessuno. Erano stati proprio i loro cori razzisti all'interno di un bar a scatenare le proteste di Francesca e il successivo agguato all'esterno del locale. Non sono, né questo né quello di aprile, fatti isolati. Il 17 luglio del 2005, 3 ragazzi di sinistra feriti in modo grave e poi ancora altri pestaggi, sempre in centro, fino al ferimento con un coltello di un militante della Fiamma Tricolore, che nel dicembre 2007 fu curato con 100 punti di sutura, con il colpo che sfiorò l'arteria femorale. Davide Piriocos, GR24, Il Sole 24 Ore, Verona. Due dei tre pazienti che nel 2006 subirono trapianti di organi infetti da virus HIV all'ospedale fiorentino di Careggi sono stati risarciti dal danno. È stato così chiuso il processo a carico della biologa responsabile dell'errore in laboratorio che era stata rinviata a giudizio. I due pazienti hanno rimesso le querele. Invece ancora da definire il risarcimento per il terzo paziente che, diversamente dagli altri due, aveva intrapreso solo un'azione civile. E c'è una notizia battuta poco fa dalle agenzie, arriva dall'Iraq. C'è stato un attentato suicida nella città di Kanakin, a circa 180 chilometri ad est di Baghdad. I morti sarebbero almeno 15, una quindicina anche i feriti. La notizia è stata riferita appunto poco fa dalla televisione all'Arabia, è stata poi ripresa da tutti gli altri mezzi di informazione. Secondo un'altra televisione, panaraba Al Jazeera, l'attentato è avvenuto nei pressi di un ristorante. Vi ricordiamo che Kanakin è una città abitata in prevalenza da curdi sciiti. Passiamo al centenario del futurismo. Sono tante le iniziative, in particolare a Milano ad oggi si apre una delle mostre previste. Noi futuristi imponevamo la nostra fede spalanda. Milano diventa da oggi la capitale del futurismo e lo sarà per tutto il 2009. A 100 anni dalla pubblicazione del manifesto futurista avvenuta esattamente il 20 febbraio del 1909, nel capoluogo lombardo che fu culla e centro propulsore di questa importante corrente artistica, si celebra l'anniversario con una lunga rassegna intitolata Futurismi. Mostre ed una serie di eventi per raccontare un movimento che metteva il coraggio, l'audacia e la ribellione al centro della sua poesia. Incursioni teatrali con la città trasformata in un gigantesco palcoscenico e anche danza. Rissa in galleria vedrà 33 ballerini impegnati nella rievocazione del celebre dipinto di Boccioni. Tre le grandi mostre milanesi. La prima, intitolata Futurismo 1909-2009, velocità più arte più azione, da oggi fino al 7 giugno a Palazzo Reale. Una delle curatrici, Ada Masoero. Dal momento che la mostra è stata pensata per Milano, che è la città in cui tutto ha avuto inizio, si è posta da subito l'ambizione di essere il più esaustiva possibile di quello che è stato questo generoso utopistico movimento, indagando tutti gli aspetti che il futurismo ha voluto contaminare con la sua energia, con la sua vitalità, con questa sua proiezione verso il futuro e questo suo rifiuto totale di tutto ciò che odorava di passatismo. La seconda mostra milanese, intitolata Marinetti uguale futurismo, sarà invece la Fondazione Stelline a partire dal 12 febbraio. La terza, infine, Futurismo 100 simultaneità, sarà allestita ancora a Palazzo Reale dal 15 ottobre. Oltre al capoluogo lombardo, comunque altre città italiane renderanno omaggio al futurismo per tutto il 2009. A Venezia la collezione Peggy Guggenheim esporrà per tutto l'anno una serie di capolavori futuristi e il MART di Trento e Rovereto ha già in programma una mostra che mette a confronto i rappresentanti del futurismo con i pittori più innovativi degli inizi del Novecento. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Una notizia che è una conferma di indiscrezioni diffuse nei giorni scorsi e riguardano Opel, il costruttore automobilistico tedesco che era in difficoltà a causa della crisi della casa madre americana, la General Motors. Ebbene, gli incentivi alla rottamazione danno decisamente ossigeno, quelli tedeschi naturalmente. A gennaio le vendite sono cresciute del 30% rispetto allo scorso anno, ha annunciato la società. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Dopo la sconfitta in aula ieri su un emendamento al decreto sicurezza, oggi il governo ha incassato il via libera del Senato all'articolo 39 che dà la possibilità ai medici di denunciare i clandestini bisognosi di cure. Federico Bricolo della Lega. Questa è una norma che è già in vigore in Germania, è già in vigore in Francia, negli Stati Uniti, in molti paesi europei. La sinistra deve sempre criticare. Noi vogliamo garantire un servizio sanitario migliore per i nostri cittadini, allo stesso tempo vogliamo anche capire chi entra nei nostri ospedali. E così replica Anna Finocchiaro del Partito Democratico. Non solo Galan, governatore del Veneto, ha denunciato la possibile catastrofe sanitaria, perché è ovvio che se un immigrato che ha la tubercolosi non va dal medico, perché il medico non ha più il divieto di non denunciarlo, e quindi non sa, sarà denunciato probabilmente. Questo può accendere un focolaio di tubercolosi, malattia sparita nel nostro paese, la può pigliare il nostro figlio quando va in autobus o quando va in metropolitana. E una donna che deve partorire o che ha un bambino piccolo malato non andrà dal medico temendo di essere denunciata. Io mi chiedo cosa questo abbia a che fare con una regolazione seria dell'immigrazione. E nell'articolo 39 del decreto si prevede anche il carcere fino a 4 anni per i clandestini che restano in Italia nonostante l'espulsione, oltre che la tassa sul permesso di soggiorno fissata tra gli 80 e i 200 euro. Ancora giù l'inflazione, secondo le stime preliminari dell'Istat, si è fermata all'1,6% nel mese di gennaio. Intanto è stato aggiornato il paniere dei beni sui quali si calcolano i prezzi al consumo. Entrano i DVD, le chiavette USB e il mais in scatola. Ma perché vengono inseriti così tardi? Roberto Monducci, direttore centrale Istat. Il paniere fa riferimento a prodotti di largo consumo. Noi dobbiamo considerare i comportamenti medi dei consumatori, quindi dobbiamo fare riferimento a prodotti che si affermano sul mercato in qualche modo. Il governo sta lavorando ad un provvedimento per il caso di Eluana Englaro, lo conferma il portavoce del Presidente del Consiglio Paolo Buonaiuti, e si apprende da altre fonti che una bozza di decreto per bloccare la sentenza della Cassazione dovrebbe essere esaminata già nel Consiglio dei Ministri di domani. Intanto la Procura di Udine ha aperto un'inchiesta, secondo indiscrezioni vorrebbe verificare le testimonianze di amici e parenti sulla volontà della donna in stato vegetativo permanente da 17 anni. Per un pestaggio fuori da un bar di Verona 8 arresti sono ultra di destra, alcuni erano già indagati per atti di razzismo. È arrivato l'accordo fra la Totale e gli operai inglesi che protestano contro l'assegnazione di un appalto alla Irem di Siracusa. L'accordo prevede la creazione di 102 nuovi posti per i lavoratori inglesi, in aggiunta a quelli per i dipendenti dell'azienda siracusana, italiani e portoghesi. La banca centrale inglese taglia i tassi di mezzo punto e li porta all'1%. Alle 13.45 ci sarà invece la decisione della Banca Centrale Europea. Il ciclista belga Frederik Nolf è stato trovato morto nella sua camera d'albergo questa mattina, lo ha annunciato Eddy Merckx, uno dei direttori del Tour del Qatar. Nolf, 22 anni, è stato trovato senza vita nella stanza dell'hotel che occupava con un compagno di squadra. Allora, ve l'abbiamo anticipato, avremmo parlato di incentivi ad alcuni settori per far ripartire l'economia, si parla di incentivi per la rottamazione delle auto, ma anche di detrazioni fiscali per chi acquista elettrodomestici. Allora, a dire il vero, nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri non è previsto al momento, da quanto si apprende, l'esame di un vero e proprio decreto, ma il ministro Ronchi parla di una bozza all'esame domani. Facciamo un po' di chiarezza con Carmine Fotina da Roma, collega del Sole 24 Ore. Carmine, buongiorno. Buongiorno. Allora Carmine, a prescindere da se sia nell'ordine del giorno oppure no, iniziamo dal settore auto. Chiariscici un po' quali sono, cosa prevede di fare il governo. Ma ormai diciamo la cornice dei provvedimenti è abbastanza chiara, si sta lavorando in queste ore, si lavorerà immagino anche domani ancora sulle cifre in qualche modo. Il punto è che la certezza sia sulla rottamazione, che riguarderà i veicoli Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 immatricolati fino al 1999. A fronte di un acquisto di un'auto ecologica a bassissimo impatto ambientale, che sia Euro 4 o Euro 5. Sull'entità del bonus si è aperto ieri un piccolo giallo, perché le cifre circolate nei giorni scorsi parlavano di 1.400-1.500 euro, mentre l'ultima bozza prevederebbe 1.000 euro. Nonostante ciò ci sono appunto valutazioni in corso tra il Ministero dello Sviluppo e il Ministero dell'Economia per capire se, compatibilmente con le esigenze dei conti pubblici, si potrà salire in qualche modo portando il bonus per l'appunto intorno ai 1.400-1.500 euro. A questo Concludi, prego Carmine. No, a questo è legato anche il destino del bollo auto, nel senso che si parla anche di un'esenzione di fino a tre anni per il bollo auto. Probabilmente le due opzioni sono tra loro alternative. Se si procederà con l'esenzione del bollo auto, il bonus per la rottamazione potrebbe essere più basso e ovviamente viceversa. Si parla anche di incentivi per l'acquisto di elettrodomestici e mobili, non si tratta però di rottamazione, insomma, se vado a rottamare il mio comodino e ne compro un altro, non è che ho qualcosa in cambio, si tratta invece proprio di detrazioni in questo caso. Sì, il meccanismo a cui si pensa è una detrazione fiscale, una detrazione IRPEF del 20%, che sarebbe però vincolata a ristrutturazioni edilizie e riguarderebbe tutto il settore degli elettrodomestici, frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici e l'arredamento, dunque i mobili, ma ovviamente soltanto se i mobili sono acquistati nell'ambito appunto di una ristrutturazione dell'edificio, dell'appartamento. Ed è nel caso caso degli elettrodomestici, una variante a un meccanismo che tutt'oggi in realtà esiste limitatamente a frigoriferi e congelatori, che prevede per l'appunto una detrazione IRPEF del 20%, ma questo per quanto riguarda la norma che è attualmente in vigore, a prescindere da un intervento di ristrutturazione edilizia. Invece appunto con il decreto ci sarebbe questo nuovo meccanismo. Grazie Carmine Fotina per averci aggiornato sulla situazione. Poi domani naturalmente saremo probabilmente, visto che il Consiglio dei Ministri è convocato per la mattina, saremo in grado di darvi anche i dettagli veri di quel che emergerà. Adesso parliamo di università, Alessandra. Sì, università in crisi, ma non ci riferiamo alla mancanza di fondi e alle proteste degli ultimi mesi degli studenti contro il governo. Parliamo invece della crisi delle immatricolazioni. Sì, i dati sulle immatricolazioni sembrano dire di sì, visto che in iscritti sono in calo, ossia che c'è una crisi. I diplomati, dicono alcuni esperti, si fidano di meno dell'università italiana come strada per trovare lavoro, ma ci sono anche altre ragioni dietro questo fenomeno. È il calo più forte da 7 anni a questa parte per l'università italiana. I dati forniti dal Ministero dicono che a fine novembre i neoimmatricolati sono scesi a 312.104, il 3,27% in meno rispetto allo scorso anno. Se si tiene conto che nel 2001 i giovani passati dalle superiori allo studio accademico erano il 72%, la percentuale del 66% registrata quest'anno mostra una tendenza chiara. Stefano Molina, dirigente di ricerca della Fondazione Agnelli di Torino. La tentazione è di collegare questo con la crisi economica. Direi che questo è un errore, perché la decisione di immatricolarsi all'anno accademico 2008-2009 è una decisione che matura durante la prima metà del 2008. A pesare, continua Molina, è piuttosto la fine dell'effetto della riforma del 3+2, che aveva spinto anche molti adulti a reiscriversi all'università, puntando sul sistema dei crediti. Ci sono degli atenei che si sono specializzati nel consentire a persone che già lavorano e che hanno acquisito dei crediti sul mercato del lavoro o che avevano iniziato un percorso universitario non avevano finito, la possibilità di concretizzare tutto ciò in una laurea. L'anno scorso l'Università di Perugia ha laureato un 42% dei laureati precoci. È ovvio che i funzionari ministeriali o gli iscritti ai vari ordini professionali non sono infiniti. E infatti l'Università di Perugia per stranieri è quella che registra il calo più marcato, 38,6% in meno delle immatricolazioni. Poi, conclude Molina, c'è il fattore demografico. Al nord la popolazione cresce grazie all'immigrazione, mentre al sud cala. E infatti le immatricolazioni al sud sono scese del 6%, mentre i neo iscritti sono addirittura cresciuti nel nord-ovest. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Andiamo innanzitutto in Francia oggi con te, da Le Figaro. Sì, ogni ministro ha i suoi guai e ogni ministro viene un po' a volte così crocefisso dalla stampa. Questa volta tocca al ministro francese Bernard Kouchner degli esteri. È stato più volte accusato nei giorni scorsi di aver così avuto un atteggiamento un po' disinvolto nei confronti di alcuni paesi africani, o meglio dei loro governanti. Non sempre sappiamo in Africa chi governa è così trasparente, e ora Bernard Kouchner si difende con una grande intervista pubblicata a tutta pagina sulla prima pagina di Le Figaro, dove spiega le sue ragioni e spiega sostanzialmente la ragion di Stato, cioè che a volte purtroppo un ministro degli esteri deve avere a che fare col suo omologo, anche se ovviamente appartiene a governi che idealmente vorremmo diversi, e questo è il caso di molti paesi se non regimi africani. Giulia, invece i giornali tedeschi continuano a parlare della polemica con il Vaticano. Sì, non si spegne, forse anche perché è entrata in campo direttamente Angela Merkel, perché si tratta di un papa tedesco naturalmente. La Süddeutsche Zeitung cerca un po' di presentare il più oggettivamente possibile i fatti, spiegando anche che Benedetto XVI ora vuole comunque porre delle condizioni agli integralisti, quelli che la Süddeutsche Zeitung definisce gli integralisti della Chiesa Cattolica, quindi per esempio i seguaci del vescovo Lefebvre, e che però questo non, secondo la Süddeutsche Zeitung, non basta ancora, ci dovrebbero essere delle vere e proprie scuse ai rappresentanti della comunità ebraica, che come sappiamo non ci sono ancora state, ma è l'argomento della Santa Sede naturalmente, spiegano altri giornali tedeschi, è che non spetta alla Santa Sede scusarsi per affermazioni fatte da qualcun altro. Grazie anche per oggi, Giulia, per questo panorama sui quotidiani esteri. Buona giornata. Sabato inizia il Sei Nazioni di rugby e prosegue il nostro viaggio fra le avversarie dell'Italia. Oggi, Giacomo Bagnasco, andiamo dai nostri cugini. Sì, andiamo in Francia, anche se in realtà saranno i francesi a venire da noi, giocando in Italia l'ultima partita del Sei Nazioni il 21 marzo. Giochiamo contro una squadra che l'anno scorso, con il nuovo allenatore Marc Lievremont, ha provato addirittura 56 giocatori. Proviene da un autunno così così nei test match, ma è il solito grande serbatoio di talenti. Le formazioni francesi non sono andate tanto bene nell'Heineken Cup, la Champions League ovale, solo una si è qualificata, il Tolosa. Ma comunque dobbiamo pensare alla Francia sempre come una delle possibili favorite. Nel ruolo nevralgico della mediana ci sono stati tanti cambiamenti negli ultimi tempi e forse manca una leadership nel gioco, ma soprattutto a livello psicologico. Però lo straordinario talento dei trequarti francesi, una mischia sempre solida, ci fanno dire: ah, fossimo veramente cugini, fossimo parenti stretti e potessimo somigliare un po' di più ai francesi. C'è qualcosina su cui potremmo far leva per tentare di sconfiggerli o quantomeno limitarli, Giacomo? Ma guarda, io penso che proprio perché siamo latini, perché abbiamo un temperamento diverso da loro, il fatto di affrontarli all'ultima giornata potrebbe essere un vantaggio o uno svantaggio. Sicuramente uno svantaggio se la Francia sarà ancora in corsa per la vittoria di questo Sei Nazioni, che si è aggiudicata 4 volte negli ultimi 9 anni. E invece potrebbe essere un vantaggio se loro non avessero più niente da chiedere. A questo punto forse verrebbe un po' meno la loro concentrazione e noi potremmo fare un colpo che nel torneo contro i transalpini non ci è mai riuscito. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. È appena arrivata la decisione sui tassi di interesse da parte della BCE, l'ha lasciata invariati al 2%, tra poco il collegamento con Francoforte. La Bank of England oggi invece ha tagliato il tasso di interesse di 0,5 punto percentuale, portandolo all'1%. Dopo la sconfitta in aula ieri sul decreto sicurezza, oggi il governo ha incassato il via libera del Senato all'articolo 39 dello stesso decreto, che dà la possibilità ai medici di denunciare i clandestini bisognosi di cure. Nello stesso articolo si prevede anche il carcere fino a 4 anni per i clandestini che restano in Italia nonostante l'espulsione. Ancora giù l'inflazione, secondo le stime preliminari si è fermata all'1,6% nel mese di gennaio. Intanto l'Istat ha aggiornato il paniere di beni sul quale si calcolano i prezzi al consumo. Entrano DVD, chiavette USB e il mais in scatola. Il governo sta lavorando ad un provvedimento per il caso di Eluana Englaro, lo conferma il portavoce del Presidente del Consiglio Paolo Bonaiuti, e si apprende che una bozza di decreto per bloccare la sentenza della Cassazione dovrebbe essere esaminata già nel Consiglio dei Ministri di domani. Intanto la Procura di Udine ha aperto un'inchiesta, secondo indiscrezioni vorrebbe verificare le testimonianze di amici e parenti sulla volontà della donna in stato vegetativo permanente da 17 anni. È arrivato l'accordo fra la Totale e gli operai inglesi che protestano contro l'assegnazione di una parte alla Irem di Siracusa. L'intesa prevede la creazione di 102 nuovi posti di lavoro per i lavoratori inglesi. E andiamo dunque a Francoforte. Beda Romano, buongiorno. Tassi invariati, in fondo era nelle attese. Sì, buongiorno. Sì, era nelle attese. La stessa Banca Centrale Europea aveva fatto capire che nel mese di febbraio non avrebbe ridotto nuovamente il costo del denaro. D'altronde la BCE ha ridotto il costo del denaro 4 volte negli ultimi 5 mesi, dal 4,25 al 2%. L'impressione però è che il 2% non sia il punto di arrivo dell'allentamento monetario della BCE, l'impressione è che ridurrà nuovamente il costo del denaro probabilmente in marzo e probabilmente di 50 punti base. L'inflazione è in calo, la situazione economica certo non è migliorata, la situazione di molte banche tedesche ed europee non è assolutamente facile e ho l'impressione che la banca dovrà allentare ancora il credito per portare il tasso di interesse all'1,5%, che sarebbe veramente il minimo storico da quando l'euro ha visto la luce. Grazie allora a Beda Romano, collegato con noi da Francoforte. Lo ricordiamo, dunque, la BCE ha lasciato invariato al 2% il costo del denaro. E ora il diario da Gaza di Fausto Biloslavo. Fausto, dove ti trovi oggi e che cosa ci puoi raccontare? Sì, mi trovo a Gaza City e da queste parti qualcuno con la casa completamente distrutta dall'attacco israeliano ottiene $500 per sopravvivere, altri che non criticano Hamas ricevono 4.000 euro. Qui a Gaza il movimento islamico gestisce il potere anche attraverso il controllo degli aiuti e la distribuzione alla popolazione. Ieri l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi ha denunciato la confisca da parte dei poliziotti di Hamas di oltre 400 razioni di cibo e 1.500 coperte destinati all'emergenza del post-conflitto a Gaza. Il portavoce di Hamas, Fawzi Barum, ha accusato alcuni dipendenti dell'ONU di distribuire gli aiuti solo agli oppositori di Fatah, il partito del presidente palestinese Abu Mazen. Ma nella guerra degli aiuti sono coinvolte anche le organizzazioni umanitarie locali e non solo, anche quelle internazionali. Uno dei loro presidenti, che ha paura di parlare apertamente, mi ha detto ci hanno intimato di non distribuire gli aiuti autonomamente e di non raccogliere i dati sulle distruzioni, perché la ricostruzione qui a Gaza sarà un business lucroso e un affare politico per il controllo del consenso nella striscia palestinese. Grazie a Fausto Biloslavo, collegato con noi da Gaza. Ora ci spostiamo negli Emirati Arabi, dove una riforma sulla preghiera islamica è destinata a suscitare polemiche. E ce ne parla, la sigla l'avrete riconosciuta, Adib Fateh Ali. Niente più altoparlanti per le preghiere islamiche. Sermone del venerdì unificato per tutto il paese, così come per l'abito unico degli imam. La chiamata dei muezzin dovrà avvenire nello stesso istante in tutte le moschee. Sono solo alcune delle misure decise dagli Emirati Arabi Uniti in una riforma senza precedenti destinata a provocare una forte polemica nel mondo islamico. Si tratta di misure di civiltà che, nel rispetto della Sharia islamica, intendono adeguare ai nostri tempi l'esercizio del culto da parte dei fedeli. Così ha risposto alle prime critiche giunte in rete il presidente dell'ente religioso locale interpellato dalla TV Al-Arabia. La nostra riforma, ha aggiunto, è destinata a fare delle moschee degli Emirati le migliori di tutto il mondo. Adib Fateh Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. Allora, tra poco andremo nell'estremo angolo nord-orientale dell'Europa, dove la spedizione oltre si avvicina ormai alla Siberia. Ma rimaniamo in Russia perché abbiamo trovato una notizia piuttosto curiosa. Sì, vi ricordate la battuta di Silvio Berlusconi che definì Barack Obama abbronzato? Come dimenticarsela? Ebbene, in Russia quella battuta è diventata lo slogan di alcuni solarium. Allora, ci sono per esempio delle frasi in alcuni centri di bellezza di Mosca che recitano: vedete a quale successo può portare l'abbronzatura? Oppure nelle strade di San Pietroburgo si possono incontrare degli uomini di colore, usati come uomini sandwich, insomma, che portano dei cartellori pubblicitari con la scritta "Io mi sono abbronzato qui". Quindi diciamo così, una battuta di successo. Andiamo appunto alla spedizione oltre adesso. Gigi Donelli ha sentito questa mattina il capo spedizione Peter Johansen alla vigilia di una tappa molto complessa che porterà la carovana italiana fino al mare polare. In questo momento noi siamo a Ukhta. La temperatura in questo momento è 37 gradi sotto zero. Però riconosco che una delle strabellezze di questa località, diciamo così, questa città, in questo momento è che c'è un sole meraviglioso. Voi avete percorso migliaia di chilometri praticamente al buio. Al buio, totalmente al buio. Adesso siamo in una condizione dove il sole è leggermente sopra l'orizzonte e abbiamo un cielo di una limpidezza veramente meravigliosa. I mezzi stanno funzionando bene, sicuramente nelle maggioline soffriamo leggermente il freddo, maggioline che sono poste una sopra il veicolo, l'altra maggiolina è posta sul carrello che, come tu sai, abbiamo a rimorchio, che fino adesso si sono comportati egregiamente. Infine, quando per raggiungere l'area mar seguirete dei percorsi tracciati o dovrete, diciamo, fare anche della navigazione, del fuoristrada? Sì. Estremo. Noi faremo oltre 500 km di navigazione fuoristrada, non abbiamo percorsi tracciati perché non ci sono percorsi che collegano Ukhta a Narian Mar. Noi per buona parte andremo praticamente in navigazione e abbiamo fortunatamente Ricchi, il nostro alpino, che è un esperto navigatore, e stiamo lavorando tranquilli. Abbiamo tracciato la rotta ieri sera, stamattina siamo pronti a partire, sì, adesso prendiamo e andiamo. Vi ricordiamo che se volete scrivere a Oltre o vedere i filmati su queste zone potete trovare tutto su www.elsole24ore.com e su www.radio24.it. Ed è tutto per questa edizione della GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Come sempre vi ricordiamo, se volete scriverci, l'indirizzo è extralarge@radio24.it. Il coordinamento è stato di Maria Piera Ceci, in regia Peter Bescapè. Il prossimo giornale radio è alle 15. Noi ci ritroviamo domani alle 13. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.